2. Ascolta e ripeti. Che cosa devi fare oggi in ufficio? Alle 9 arrivano dei clienti dalla Francia e devo restare con loro fino alle 11. Vogliono visitare l'azienda e vedere la nuova collezione di abiti da donna. Poi incontriamo il direttore e... Ah, sta arrivando il controllore! Biglietti, prego. Sì, ecco il biglietto. Va bene, grazie. Io ho l'abbonamento, ecco. Va bene. Beh, Anya, se non sbaglio, fino a questa sera devi essere a disposizione, vero? Sì, è proprio così. E tu, che cosa devi fare oggi? Oggi incontro il direttore di una compagnia di ballo. È qui per organizzare gli eventi della prossima estate. Vuole visitare il nuovo teatro e vuole anche selezionare dei ballerini e delle ballerine disponibili a lavorare per 2 mesi all'estero. Beh, può essere una grande occasione per i tuoi allievi. Sì, spero proprio di sì. Anche tu hai una giornata piena di impegni. Questa è la mia fermata, scendo. E Isabella, grazie. Di niente, Anya. Buon lavoro. Anche a te. Ciao.